proprio la mandala laterale, dai. USB, da un paio di colpi, ma il misuratore mi dice nada, quindi non sto scendo. No, no, non ti sento. Infatti, non è dubitato, è troppo, è chiedere troppo, devi bisognato costruirselo, questo no, no, poverino non ce la fa, per quanto faccia del suo meglio, però non ce la può fare, sono le lunghe. L'altro giorno, quando sono andato da quel tipo, quando ho preso quell'antenna là, quella particolare, mi ha dato un'antenna ancora imbustata, ne ha tante di queste antenne di diverse frequenze, della Cartrain, chissà cosa costava all'epoca, veicolare, che va da 110 a 170, e c'ha una molla sotto e vuole resina l'antenna, vuole accorciata a seconda, ci sono tutte le istruzioni per calibrarla in base alla frequenza, c'è una tabella, non l'ho neanche aperta, è ancora dentro la busta. Figurati. Anche io ne ho una che va messa sotto di quelle veicolari, no? Sempre per quell'apparecchio celeste, però ci va sotto l'accordatore automatico. Ma tu perché c'è anche l'accordatore di quell'apparecchio? No, c'ho l'accordatore del Motorola, che è formidabile. C'è da Motorola, sì, era insieme a Motorola, però è un SGS stagno, non ho capito perché sta andando in separazione da parecchio, forse c'è qualche rientro, ma no, perché che cosa strana. No, i picchi sono positivi, poi quello che mi ha fatto vedere è che io non li avevo mai visti, apparecchi marini, HF della ICOM, ma professionali, che anche delle bestie di radio, che tengono 250 watt, cose bellissime, belle, poi della Sailor, e aveva di tutte le marche, di tutto e di più. Quelli della ICOM, uno Motorola lo stesso, non li avevo mai visti, l'ICOM professionali per le navi di cose, oceaniche, da 250 watt. Quelle quando c'era il portatore radio parlavano anche quando erano in prossimità degli Stati Uniti, quindi figurati, vabbè che c'erano due vitralici, il traccio trasmittente di portatore radio era da dove c'è il cimitero, praticamente lì dietro, non lo ricordo. Ah, allora mi ricordo che c'erano a filare, sì, già me lo ricordo, poi infatti dicevo, ma di che cosa sono queste antenne? L'ingresso invece era dove c'è quel cancelletto in legno verde piccolino che portava alla casetta su questa hotel villa, e dentro c'avevano gli apparati, sicuramente erano quelli, ma adesso non raccalo come alcuni, una cosa del genere, non mi ricordo la potenza con cui trasmetteva, magari erano 600 watt, 500. Aspetta, forse c'è qualcuno che vuole entrare, avanti che vuole entrare, ho visto un colpo importante quando stavi parlando tu, vabbè, ok, riprendi tu, no, questo mi ha impressionato perché non avevo mai visto della ICOM di questi professionali grossi, cioè per uso professionale, non giocattolini, diciamo, giocattolini relativamente amatoriali, questo era proprio parato professionale della ICOM, 250 watt, e mi sembra che sono alimentati a 48 volt questi apparecchi. Sì, ce ne di tutti, i modelli. Segnalo neanche stavo cercando di ascoltare Torino, mi sembrava greco, ma non ne sono sicuro. Ah, ma poi questo c'è anche il rec di quelli delle navi, che metto di testa questo rec con l'alimentatore, ecco, perché sono normalmente 32 o 48 volt questi apparecchi qua. Infatti non credo che ce ne siano a 220, a meno che non ci abbiano qualche inverter o cosa del genere. Ma ci avrei tutto, e poi la cosa mi ha fatto, diciamo, non dico ridere, però colpito, ha tirato fuori uno di questi nuovo fiammante di una scialuppa di salvataggio di queste oceane, che è una specie di valigia in ferro che lo apri arancione, e dentro c'è il coso che ti manda il segnale a satellite continuo per andare, e poi c'è un'antenna che si scioglie, c'è l'apparato tutto a norme coso, il P67, non so, quelli che li puoi affondare, che li metti in acqua, no? È impermeabile. Sì, dici del pipirde. Non ho capito, scusa. È quello che fa in acqua per lanciare SOS e le pipirde. Sì, quello che buttano quando per affondare la nave, lo metti nella scialuppa di salvataggio, c'è una valigia grande, tutta in ferro, stagno, una cosa fatta, costruita proprio tipo, cioè presente le scatole nere delle aeree, quelle indistruttibili, che ne possono cadere con un'esplosione, non succede niente. Sì, all'interno c'è questo apparecchio trasmittente, trasmette il segnale probabilmente a una frequenza particolare, non lo so dove lavorino quel tipo di radio, però credo che siano HF, non sono VHF, cose del genere. Dunque, se l'EpiBird, che lo riconosci subito perché sopra c'è una specie di flash, quindi c'è una lampada che accende per la notte, e in più manda anche il segnale appena è a contatto con l'acqua, a prescindere dall'operatore, dall'azionamento da parte dell'operatore. Manda un segnale, uno sulla frequenza d'emergenza aerea, e quindi lo ascoltano immediatamente gli aerei. L'altro è sulla frequenza UHF, contemporaneamente due frequenze, e quindi dà la possibilità di avere un'intercettazione abbastanza agevole. E funziona automatico, le PBS. Sì, sì, è quello che hai detto tu, c'è anche la lampada antroposcopica che lampeggia sotto, si vede, è tipo come c'erano le cose, la boetta luminosa, quando la butti in acqua si capovolge e si accende, non so se tu sei pratico di marineria, però nelle rotazioni di bordo deve avere la boetta luminosa che come tocca l'acqua si capovolge e si accende, c'è un sistema meccanico, elettromeccanico, che commuta questo interruttore elettromeccanico e si accende questa boetta lampeggiante. Quella che c'è lui è l'antroposcopica, ma valigia grossa, stiamo parlando più grande di una 24 ore, vabbè, di grandezza come una 24 ore, però molto, ma molto più grossa, tutta in metallo, credo che sia alluminio quel metallo lì, con tutte le guarnizioni, tipo, c'è vedete una scialuppa autogonfiabile nelle dotazioni di sicurezza, che quando butti in terra si apre, questo deve essere il principio, però l'ho fatta vedere aperta, non l'avevo mai vista aperta. Non so se sotto c'è qualcuno. Ecco, le pipette a 406 MHz e poi anche sulla banda aerea praticamente devono reggere intorno alle 48 ore, quindi un giorno e mezzo, dai, sperando che ti provino. Questo è 406 MHz. Sì, l'altra è il trasmettitore, poi è sulla 121.5 della frequenza di emergenza di aerei, potenza di circa 50 mW, mentre in UHF c'è 5 W. No, non lo so, potenza, ho visto che c'aveva dei contenitori, che probabilmente c'erano le batterie, ma mi ha colpito perché era tutto arancione, proprio un colore bello pieno, poi c'era questa lampada stroboscopica, se non mi ricordo male era rossa, tipo una sirena fatta, che come aprivi questa fase lampeggiava, probabilmente galleggiava, non lo so come funzionava, almeno l'immaginazione mia mi dice quello, qualcosa che galleggi e butta fuori questo segnale. No, io pensavo fosse su frequenze più basse, diciamo, onde più lunghe, invece mi ripeti tu in VHF c'erano le frequenze. Sì, sulla 121.5 che è la frequenza del soccorso aereo, e sulla 406.028 che è la frequenza di ricerca SAR in UHF, e credo che quella vada anche via satellite. Immagino, anche io immaginato magari manda qualche frequenza captabile tipo da posizioni più alte, diciamo, che sia più facile da reperire, magari c'è una frequenza sopra i 1000 mega e nei giga, magari riesce a mandare qualche cosa. Ok, lasciamo un attimino di bianco, vediamo se nel frattempo qualcuno ha desiderio di entrare qua sul canale 10. Avanti, che vuole entrare? Niente, vai tu di nuovo Gianfra. Ma questo è un grandissimo appassionato, proprio tu vedi cosa c'è, sembra ricca che tipo lo sono entrato pazzo, quello di Ritorno al Futuro, sono entrato dentro lì, cavolo, cosa cavolo c'è? Tutto antenne, soprattutto tutta roba professionale, antenne di quelle, cioè presente quelle nautiche grosse, bianche, tipo vetroresina, alte 4 metri, 3 metri 50, ne aveva pieno di queste antenne, ma anche roba nuova, c'erano raccavi di tutte le misure, di tutti i tipi, c'è flex, cavi innesti particolari, tutta roba professionale, comunque niente di amatoriale. No, perché ne hanno la pena di usare, perché sono tutte fortemente regolamentate, quelle a uso marino, capito? Poi se sono anche sulle scialuppe, che ce ne dovrebbe essere anche una, perlomeno c'era, magari adesso ci sono ancora, dentro le scialuppe c'è anche una che potrebbe essere alimentata, una radiolina a manovella, cioè una manovella che comunque ti permette di avere corrente in mancanza d'altro. Magari adesso l'avranno sostituita con qualche micropannello o qualcosa del genere, però cioè, per quanto presto ricorsi alla manovella comunque funziona sempre. No, io me l'avevo comprata anni fa, non ricordo se l'avevo ordinata, una pila di queste carica la manovella, facciamo anche una radiolina per ricevitorata. No, questo è un SWL, ma grande appassionato solo di roba marina, di altre cose non gliene frega, satelliti, formazioni satellitari, c'è un sacco di monitor e queste cose marine, c'è un bel traliccio, infatti mi ha detto a me, mi ha dato il nominativo di un amico suo che me lo porterebbe pure a Sassari, ha un prezzo ridicolo, un traliccio di 8 metri, bello. Quello che c'ha lui è tutto, aspetta, quello che adesso mi ricordo se è a base quadrata, sì, su è a base quadrata, questo invece che mi dice a me è a base triangolare, c'ha la scaletta per salire su e alto, sarà una decina, 10-12 metri questo traliccio, c'ha un sacco di roba, tutto mimetizzato di verde, lo vedi, c'ha la parabola pure per ricevere anche cosa state, tutto verde l'ha fatto questa cosa, e più c'ha una marea di antenne, infatti tra cacca tutte queste antenne, lui ascolta un bel di roba, tutto è appassionato di ascolto. Perché è affascinante, è un mondo ricco di tante cose, le comunicazioni di lì fanno la differenza a volte tra la vita e la morte. E ti volevo dire, tu per le HF, per l'ascolto in HF, che antenne usi? No, a quel momento non c'ho niente, c'ero l'antenna ma l'ho tolta, era troppo grande e mi stava rompendo una 5 bande, dovrò mettere adesso qualcosa prossimamente, dai, un dipolo devo metterlo a filare, che mi farà i 40 e gli 80, adesso mi ricordo che bande, ma la devo piazzare. Quello sto ascoltando adesso questi giorni sulla manta, ma ti posso dire, ascolto bene, però senza accordatore, perché se c'è accordatore inserito non prendi niente, devi mettere la diretta pulita e ti dico, ho dei bei segnali, rimango a bocca aperta, non me l'aspettavo che la manta scendesse così in basso, 7.000, 3.000, cioè prendeva dei bei segnali. Infatti, mi ricordo che cosa che andava. C'hai sempre l'altro acceso, sì, il ricevitore. No, aspetta, perché voglio fare altre prove. Sì, anche se stanno, c'è qualcuno sta provando. Fino in 160. 160 mega, che cosa, non ho capito. No, 160 metri. A vedere se funziona. Però è tutto occupato. 160 metri sì, lo faccio con l'altra radio, non con questa, se no. Dammi la frequenza. Vediamo un po'. Infatti diciamo a momenti. Ieri lo stesso c'è un sacco di gente, tra l'altro ascoltavo tutti, c'è anche la Grecia, la Spagna, da tutte le parti. Mi ha colpito una volta, infatti io sono rimasto stupito e non so per quale motivo io riuscivo ad ascoltare, tutto hanno fatto la prova delle prefetture, da Trento sino alla Sicilia, compresa Sassari, e Cagliari, Oristano, eccetera, c'erano non so quante prefetture collegate, le ho sentite da Trento sino alla Sicilia tutte, e quella che devo dire bassa è la Sassari, per dire che era la più vicina di tutti, non so con che potenza usciva a Sassari, gli altri arrivavano tutte oltre nove, le ho ascoltate tutte perché c'era il corrispondente, doveva dare il rapporto quando arrivava, ti posso dire tutti i segnali erano dall'8 a 9, qualcuno anche di più. Sassari era intorno a 9, non era, io immaginavo fondo scala, invece no, in HF, non mi ricordo su che frequenza erano, una prova di tutte le prefetture hanno fatto, 4-5 anni fa, infatti sono rimasto a bocca aperta e ho detto cavolo, la Mantova riceve che è una meraviglia, vabbè, per ti caso. Sì, dipende anche dalle potenze che stanno usando comunque. No, io utilizzo, per acqua ho tre antenne, un'antenna in alluminio in particolare, con quel famoso accordatore d'antenna che ti ho detto, quella premi da 1,8 fino a 50, lei ubbidisce subito in pochi secondi, e poi due dipoli di circa 80 metri di lunghezza, sono delle long wire autocostruite, mi hanno detto che vanno bene. Sì, sicuramente. Io ho quella PKV che fa da 1,5, da 1,5 a 30 MHz, però l'ho tirata via, era troppo grande e poi al vento non è costruita bene come antenna, c'ha questa parte centrale in teflon, c'ha delle cariche, si stava mezzo piegando, ho detto togliamola via prima che si spezzi del tutto. Sì, forse sei lì in condominio, mi senti di belle cose, cioè, guai se cade vicino a qualche macchina. No, infatti devo stare attento. Io già sono, diciamo, in proprietà, non ci sono problemi, però meglio non che io sono sempre preoccupato per quando si viene qualche tomba d'aria, anche se le parabole sono di grandissima costruzione, sono tutte in resina, quella grande da 2 metri, super costruita, per uso gravoso, però non si sa mai, capito, che ti ceda qualche cosa. La piccola, quella 120, 135, quella tutta in alluminio, c'ha un bel montaggio polare dietro, però un amico mio, una di 120 a Castelsardo l'ha strappata proprio dal coso, dal montaggio polare, proprio strappata del tutto. Questa c'ha di buono che dietro c'ha, chiamiamo, un'altra parabola appoggiata, cioè il carico non è come le classiche parabole, i quattro bulloni col montaggio polare, questo qua c'ha un altro involucro dietro, c'ha un doppio involucro in modo che il carico sia distribuito meglio, per cui è garantita, non mi ricordo sino a quanti chilometri orari, però l'alluminio piano piano se ti ci ossida poco a poco, sbatti oggi, sbatte di mani, tu te ne traccia tutto. Io spero sempre che non arrivino oltre i 100 km orari, perché puoi avere l'impianto che vuoi tu, ma se arrivi nel raffica che è più di 100 km orari, ho visto dei lavori fatti dal vento spaventosi, di cose che pesavano qualche decine, centinaia e centinaia di chili, qualche tonnellata, sollevato un tetto da casa di mio zio, tu devi vedere cosa ha combinato. Sono rimasto a bocca aperta quando ho visto cosa ha combinato. Io ho finito ieri di riparare il danno che mi aveva inclinato il palo della X5000, quindi ho dovuto arrangiarmi un pochino, sto da solo a 8 metri d'altezza, a tirare su questa affare, collargano piano piano, è rimessa a posto. Adesso aspettiamo l'altra tromba d'aria, che me ne butti magari quello che ho sul tetto, e così siamo a posto. E la fila degli 80 metri dove l'hai fissata? Qualche albero? Cosa c'è alberi? Sì, ci sono anche degli alberi. Una c'ha un contrappreso su un albero, di quelli tipo c'è una corda con una specie di mattone, no? Che fa da tirante, così è una caducola per essere autoregolante alla dilatazione. E dall'altra parte più o meno idem, mentre il centrale con slalom è messo, diciamo, sul traliccio, anche quello, tutti e due sul traliccio, con ovviamente il TOC per l'RF di ritorno. In entrambi i sistemi praticamente è una cosa abbastanza grande, fatto con l'RG58, è un tutto tipo quegli arancioni, no? Le fognature, un pezzo di quella plastica lì, e c'è il TOC che ci vuole sempre per evitare i rientri. Sì, sì. E invece problemi di fulmine? No, è caduto uno vicino ma non ha fatto niente. Poi ne è caduto un altro, ma ha fottuto il contattore che è saltato in aria. E niente, guarda, sempre entra dalla corrente, dalla 220, ma qualcuno è entrato anche dalla linea telefonica. Però sai com'è? Io dico mai dire mai, ho fatto quello che potevo, poi se si è sfigato, come per tutte le cose, entra dentro, l'importante è che non ti ammazzi, ecco. Lo so, io ho questo amico, tra l'altro radioamatore da tantissimi anni, ingegnere che si occupa soprattutto di sicurezza e di, come si chiama, di altre cose, non lo diciamo qua, e dice, ha fatto tutti i calcoli statistici della zona dove abita lui, ha detto assolutamente non posso mettere antenne, e ce l'ha qua a Sassari in casa, niente di particolare, però lui va solo in CV doppia, utilizza apparati, sempre lui, anche lui, di queste cose vecchie di nave, perché lui è anche un ingegnere di cose, un navale, eccetera eccetera, appassionato di queste cose, e mi ha detto, io in campagna dove c'ho la stazione vera e propria non posso fare niente, perché ho fatto il calcolo statistico delle cadute dei fulmini, è talmente alto, dice, da pazzi, e gli ha fatto, non so che danno, mi stava raccontando, siccome c'ha analizzatori di rete, lui fa anche misurazioni particolari e cose del genere, mi ha detto decine e decine di migliaia di euro di danni, infatti non metto niente perché è da pazzi, dice, proprio come che c'è una cosa che attira i fumi, dice la mia zona. Vabbè, quello purtroppo il rischio c'è, ci sarà. Io ho visto il fulmine che si è presa con un povero cespuglio che non gli ha fatto niente. Che non gli ha fatto niente, l'ha disintegrato praticamente. Guarda, solo il suono che ha fatto, quando poi rompe anche il vetro. Guarda, io ho visto giù alle punti dove abbiamo i campi di calcio, cosa c'era un albero, un cipresso, sarà stato 15 metri, l'ha spaccato in due, tu c'hai presente, prendi un'accetta e lo tagli a metà, l'ha spaccato in due, cioè aveva due rami grossi, fatto tipo una V, l'ha aperto in due, cioè che tu prendi un'accetta e lo spacchi in due, ha avuto una potenza impossibile da capire cosa cacchio di tensione e di energia c'era in questo fumo, l'ha aperto in due, nel raggio di non so quanti metri, tu vedi cosa ha fatto di danno, ha fulminato tutto quello che c'era intorno, proprio è caduto sull'albero, e poi l'avevo visto anni fa, era successo quando ero ragazzino, da noi sulla linea elettrica esterna dell'Enel, allora c'erano i cavi esterni, l'ha tranciato di netto, un cavo di media tensione l'ha aperto, l'ha attaccato da cosa, come che tu lo tagli con i cesoli, fulmine è spaventoso quando entra. Sì, purtroppo è un'energia terribile. Ma meglio non pensarci, se no non metti mai niente. Sì, già lo so, aspetta, facciamo un attimino di bianco, tanto io tra qualche minuto tra l'altro devo andare via a mangiare, vediamo chi vuole entrare sul canale 10, tu la vai tu Gianfranco. Aspetta che stanno parlando questi, lo vediamo lo era ogni tanto si scatenano. Ecco qua, sentiva molto sottofondo. Sì, sì, abbastanza. Poi l'altro giorno, tornando ai discorsi che stavamo ascoltando di cose strane, che tu mi hai detto ogni tanto a 27, non mi ricordo che frequenza mi hai detto, l'altro giorno, un paio di giorni fa, ho acceso, c'era questo segnale digitale sotto, durato per un bel po'. Sì, l'ho ascoltato anch'io. Io invece ho ascoltato una cosa stranissima sul canale 15, a 135. Era una stazione che stava facendo servizio radiotelefonico, non capisco cosa c'entrava lì, prima ha detto il meteo e poi ho sentito stazione radiotelefonica, una cosa del genere, di non so dove, può essere verso questo paesi dell'est sicuramente, ma un signor segnale, non era fortissimo, fortemente evanescente, ed era in banda, perché poi ho controllato se lavoro, io se immagino sia già tratti e il segnale c'era dappertutto, quindi non era una regressione immagine. E poi sotto si è sentito anche il tipico tu dei telefoni fissi, no? Mi sa che mi è capitata anche a me l'altro giorno, tempo fa, una cosa del genere. E poi qualche anno fa mi era capitata, ma secondo me sono dei segnali in AM, di stazioni talmente forti, che magari buttano fuori qualche spuria, non lo so. Hanno sentito una radio, non so, marocchina, cioè in arabo, non so di che cos'era. Una radio che trasmetteva un canale broadcasting, sotto si sentiva, si è sentito per un pochettino. Secondo me sono qualche spuria irradiata da quando sparano potenze di megawatt, magari qualche cosa che esce dal trasmettitore, magari di pochi watt, però con la propagazione spara, viene sparata di chissà come. È un mistero. Vabbè, quelle lì succedeva quando c'erano le baracchine a quattro soldi proprio, e ti sentivi le onde medie alla radio, ma quando a essere apparati di un certo livello è molto molto molto difficile, però insomma c'erano. E poi sotto c'erano segnali digitali di telecontrollo di cose varie, a parte il solito packet tedesco e olandese che persevera tra il 22 e il 23, dovrebbe essere una cosa del genere. Io vorrei sapere adesso, parlando di telecontrollo, su che frequenze lavorano le centrali di bassa tensione, dell'Enel, eccetera, eccetera. Perché adesso tutto il telecontrollo, ce n'è una vicino a casa mia, proprio attaccata. Avrei voluto capire su che frequenze lavorano, perché secondo me tutti questi problemi che stanno nascendo anche di QRM, di segnali strani, sono dovuti anche a questi telecontrollo. Proprio bene, penso che utilizzi il sistema delle onde convogliate. È più efficace, tipo quello dei compattori. Non è detto, perché ho visto ci sono delle antenne, adesso metti, sono iscritto anche in gruppi particolari di radioascolto, cose così, non so se magari utilizzano solo la linea, come stai dicendo tu, però io ho visto vicino a me ci sono delle antenne sopra le centraline, diciamo, le centrali piccole, le centrali di bassa tensione o media tensione. Quelle probabilmente, se sono moderne, utilizzano il sistema POC, praticamente. In poca parola, in realtà sono dei telefoni quasi, e tramite una banda molto stretta della telefonia mandano i loro dati. Figurate che quel sistema lo dovrebbero usare, lo useranno anche per i cassonetti della spazzatura, che quando apri metti il codice per aprirlo e lui segnala che l'utente tocca per quel cassonetto per metterci un filo di immondezza, ecco. Capito? E tutti questi sistemi, anche col 5G tra l'altro, saranno il futuro, saremo pieni praticamente di controlli di movimento, eccetera, con una larghezza di banda talmente piccola che tu ne hai idea, perché manderanno delle stringhe proprio di un millesimo di secondo. Sì, infatti sarà il futuro, però vai con la, ti paghi la moneta in base al consumo, vai con la scheda, tipo come vai col posto, e attacchi 3 kg di spazzatura, te lo segnano, lo mandano alla centrale, ti dicono che arriva la bolletta. Io adesso volevo lasciare che mi hanno chiamato, grazie del cuore, sono sempre belle conversazioni, ci sentiamo alle prossime, ti auguro un buon proseguo di serata e ci risente alle prossime, ciao ciao. Anche infatti, ero lì perché ho visto che sono quasi le 8 e me ne fa cena. Uno di questi giorni cercano di installarti un programma, ti dà un programma, il sito lo puoi scaricarlo e cercare di fare qualche lavoretto su qualsiasi apparecchio, va bene, per tutto, per i segnali digitali. Ho Ok, ciao, buona serata. Sì, ciao ciao. Dai, eventualmente tramite Claudio ci scambiamo il numero di telefono, così magari si parla in diretta, dai, anziché parlare qua in radio. Ok, di nuovo ciao ciao. Ok, ciao.